scottilini sul tuo piedistallo, guardi l'orizzonte e credi ai ricordi, essi non parlano e idoli e statue crescono e crollano da sé. Ma guarda più lontano, prova a volare un po', ma fallo piano piano, finché la luce ti troverà. L'uomo e vecchio allungano la mano, sei una bandiera rapita dal vento, il cuore è un albero e foglie e foglie cadono e ricrescono con te. Ascolta da vicino, prova a sognare un po', resterai un po' bambino finché la musica ti cercherà.